Era il ritornello sfumato. Ma la voce non si sente. Non si sente tanto? Oh. La voce quando suonate mi sembra che sia molto coperta. Provate un po'. Ascolta, mi serve un po' di tabacco. Sì. È una catena lunga. Sì. Ok, ritornello sfumato, poi strofa, io. Una strofa e ritornello. Ok. No. Facciamo allora dal ritornello e poi sfumato. Ok. Così dopo c'è l'arpeggio canto. Finto l'arpeggio della prima strofa, si passa alla seconda strofa veloce. Va bene? Ok. Vai con il ritornello. Ma arriverà la sponda della libertà, su cui mi aspetterà una vita, un rilancio, un'identità. Se arriverà la sponda, io ti scriverò, dove amore presto tornerò. Sono partito 3 mesi fa dalla terra rossa come il sangue, ed ho lasciato il mio cuore là per vendere barca alla civiltà. Alla fine non sono mai arrivato, un bel tempo qualcuno ci ha parato, e anche se non sono partito, quello di colpo a soldato. Una vita me lascio unire a finire, se arriverà la foto della dignità, io lo descriverò come l'amore presso il tuo occhio.